intanto mi ricollego a quello che diceva Paola, abbiamo lavorato 5 anni, abbiamo discusso animatamente, non posso dirlo, ci siamo anche molto molto divertiti, che non è frequente, perché è stata davvero una bella esperienza. Io sono abbastanza anziano per iniziare con una vorrei fare un intervento di merito e di metodo, come si diceva una volta. Allora, uno di metodo, perché questa è stata sempre da tutti interpretata come una grande sfida per conciliare, diciamo, rigore scientifico con efficacia comunicativa, attrattività anche comunicativa. L'idea di catturare l'attenzione dei visitatori senza indulgere alle sciocchezze. E siccome di sciocchezze su dei dusi ne circolano tante, noi pensiamo in questa mostra di averle superate. Non c'è bisogno che le leggi, ma pensate al mistero del pubblicismo, al mistero della lingua, ai liberi costumi della donna etrusca, alla predisposizione degli etruschi per il vino, detti banalmente, come ne sto dicendo io, mentre fanno tutti un grande significato. Ecco, io credo che ci sia bisogno di indulgere a questi aspetti per catturare l'attenzione vera del visitatore. Io spero che coloro che escono da questa mostra dimentichino tutti questi luoghi comuni e parlino di altre cose, parlino di quello che hanno visto. E qui entro un po' nel merito, molto brevemente. Puoi far parlare un solo su di tutti, c'è un rischio che insomma. Ma dopo sì. Continuiamo. No, cioè, no, entro nel merito, cioè accanto a queste sciocchezze qua ci sono alcuni problemi, alcuni temi storici molto importanti che credo attireranno sicuramente anche non addetti ai lavori. Il primo è quello di una grande Etruria, non c'è solo un'Etruria, ce ne sono tante. Direi che c'è una grande Etruria che va dal Po al Sele, dalla pianura padana alla Campania. Poi c'è un intervallo, diciamo, di Roma del Lazio, che però per almeno 150 anni è stato quello che è tutto. Quindi in sostanza un vastissimo territorio, non a caso la tradizione dice che gli Etruschi dominarono quasi tutta l'Italia antica. E questa è la prima novità, quindi dobbiamo, e in mostra questo si vede bene, cioè cominciare a pensare a un italianismo, questo grande territorio degli Etruschi. E poi ci sono i grandi processi storici, abbiamo visto gli Etruschi protagonisti. Prima di tutto l'invenzione e la formazione della città. Noi diamo la città per scontata, ma la città nella sua condensazione demografica, ma anche nella sua complessità economica, nei suoi rapporti con gli altri, è una grande invenzione degli Etruschi. Non a caso troverete questo loro nome di Grassa, è probabilmente collegato a questo aspetto della città. E guarda caso, le città nascono contemporaneamente a Bologna e a Ponte Cagnano. A Bologna, Valle del Po, una pianura padana, a Ponte Cagnano, nel pieno della Campania. Poi queste città si trasformano, hanno delle successioni storiche e cronologiche molto importanti, da un'aristocrazia si passa a un altro sistema, e anche questo passaggio politico, storico, è percepibile dai materiali che si dimostra, ed è uguale, ancora una volta, a Bologna come a Ponte Cagnano, ovviamente anche a Tarquinia e Cerveti, ma cito i due estremi per dare idea di questa comunitarietà. L'ideologia funeraria, il modo di concepire e di trattare i morti, che è un formidabile specchio della società, e anche qui abbiamo una grande unità per queste aree molto lontane. Le loro risorse economiche, dalle miniere, dall'agricoltura, la grande agricoltura che viene inventata in area padana con la rotazione delle culture, come sappiamo bene, il commercio, e poi il rapporto con gli altri, un altro tema che mostra è interessante, cioè come gli Etruschi si rapportano con le altre popolazioni dell'Italia antica, con i Greci dell'Italia, della Magna Grecia, dell'Italia meridionale, ma con i Greci anche qui nell'area padana, perché a Spina c'erano. E questo rapporto è un rapporto pure questo molto, molto interessante. Questi sono alcuni dei problemi che io spero buttino via le altre cose che ho citato. all'inizio, basta mistero del Rimba, basta libertà delle donne russe, parliamo di fatti storici come questo. E la mostra davvero fa uno sforzo da questo punto di vista. Poi naturalmente io adesso ho accentuato l'idea di unità, etnica e culturale, ci sono anche delle diversità all'interno di questa unità, che sono diversità di territori, territori della pianura, le aree del tufo, diversità di risorse, diversità di organizzazioni, diversità di, diciamo così, di esperimenti culturali. La scultura è un filo rosso che unisce Bologna a Ponte Cagnano, ma questa scultura viene fatta con il tufo, con l'arenaria, con il marmo, con la terracotta, con il legno, in mostra. Quindi varia la materia, ma in qualche modo c'è questa idea unitaria. L'idea unitaria fondamentale è quella che riprende un po' il tema della grande mostra dei principi, non è un caso, gli Etruschi sono un grande luogo di intermediazione tra il Mediterraneo e l'Europa, un popolo che assorbe dal Mediterraneo tante cose, le rielabora e le ritrasmette verso l'Europa. Coi principi l'avevamo trattata geograficamente, ora viene trattata in modo generale. Io coi principi purtroppo ce l'ho già, nel senso che questo vuol dire che gli anni sono passati, ma devo dire che voi eravate molto più piccoli. Tutto questo è in mostra, tutto questo è illustrato attraverso i materiali. Poi aggiungo un'altra cosa, lo dicevo prima con Roberto Grandi, se uno vuole può seguire questo rigore espositivo, ma se uno vuole può anche lasciarsi andare ad una visita libera, girando per quello che crede di vedere e come assorbendo, abbandonandosi nei capolavori che ci sono, ma anche nei progetti di uso quotidiano, come diceva sempre Roberto prima. Quindi la visita è, diciamo, libera, nel senso che uno può scegliere il rigore, ma può scegliere anche un piccolo divertimento intellettuale, estetico, come vuole. Tutto questo, ricordavano prima chi mi ha preceduto, è stato possibile grazie a un grande lavoro di squadra, di cui siamo molto contenti, c'è cioè una grande tradizione su questo, e quindi mi fermo. Spero che ritroviate in mostra quello che ho cercato di riassumermi rapidamente. Dopodiché, fra 4-5 mesi, quando andrò a fare qualche conferenza in Russia, non ci sarà più una domanda che dice, ma insomma, avete risolto il Ministero della Lingua Etrusca, ma mi chiederà, ma mi dice cosa ho fatto a formare un cittadino. Spero che sia così.